cielo brilla una luce, Orione ti mostra la strada, la stella ti dice la via, tu puoi ritornare a casa, tornare a casa. Nel bosco hai cercato dei fiori, diversi da quelli che avevi, sentivi il magico suono di foglie in caduta serena. Hai mosso i tuoi passi decisi, sei andata a cercare il deserto, la croce del sud ti ha parlato, ha detto al tuo cuore silenzio, al cuore silenzio. Nel buio brilla una luce, Orione ti mostra la strada, la stella ti dice la via, tu puoi ritornare a casa, tornare a casa. Cercavi segnali più chiari per dare più luce al cammino, scrutavi le onde del mare, chiedevi al tramonto colore. Hai reso più attento il tuo orecchio al suono di dolci chitarre, nel ritmo di magiche danze la voce del cuore ascoltavi, del cuore ascoltavi. Sei ora alla porta di casa, tu devi solo bussare, la tavola è già apparecchiata, ti aspetta la pasta ed il vino, la pasta ed il vino. Nel buio brilla una luce, Orione ti mostra la strada, la stella ti dice la via, tu puoi ritornare a casa, per sempre a casa.